Al-Umra, il pellegrinaggio minore. Il pellegrinaggio maggiore al-Hajj può essere eseguito soltanto nel tempo stabilito per esso, mentre il pellegrinaggio minore può essere eseguito in ogni momento dell'anno. La Mecca e i dintorni nei quali si svolgono i riti del pellegrinaggio si trovano all'interno di un territorio sacro, sui confini del quale ci sono alcune località indicate dal profeta Muhammad, che Allah lo benedica e la ben gloria, dove i fedeli musulmani in pellegrinaggio devono mettersi in stato di consacrazione, ihram. Queste località sono cinque e in lingua araba si chiamano con il termine mawaqit, plurale di miqat. Ognuno di questi punti di ingresso è dislocato sul confine del territorio sacro della Mecca in relazione alla posizione geografica del paese di provenienza dei pellegrini. Ogni fedele musulmano in pellegrinaggio, una volta giunto al miqat, indicato per il paese da cui proviene, deve eseguire l'abluzione maggiore, al-ghusl, tagliarsi le unghie, accorciarsi i capelli, profumarsi e indossare l'uniforme del pellegrino, che è costituita da due lunghe pezze di stoffa inconsutile, senza cucitore, pulita e di colore bianco. Una delle due pezze si avvolgono attorno ai fianchi, stretta alla vita, e si chiama izar. L'altra si indossa sulla parte superiore del corpo e si chiama rida. Izar e rida sono solo per gli uomini, mentre le donne portano un normale abbigliamento, possibilmente bianco, islamicamente corretto, vale a dire che sia ampio, di stoffa intrasparente e copra tutto il corpo, lasciando visibili soltanto le mani e la faccia. Non appena indossata l'uniforme del pellegrino, il fedele musulmano in pellegrinaggio minore formula l'intenzione di eseguire il piccolo pellegrinaggio dicendo Nawaitul Umrata lillahi ta'ala, che significa intendo eseguire la Umra per amore di Allah l'Altissimo. Dopodiché inizia la recitazione della giaculatoria particolare del pellegrinaggio, che si recita anche nella Umra e che si chiama At-Talbiya. Ecco il testo di At-Talbiya. Labbaika Allahumma labbaik. Eccomi al tuo servizio, o Iddio, eccomi al tuo servizio. Labbaika la sharika laka labbaik. Eccomi al tuo servizio. Tu non hai condomini nella qualità divina. Eccomi al tuo servizio. Innal hamda wan ni'amata laka wal mulk. In verità la lode, la grazia e il regno appartengono a te. La sharika lak. Tu non hai condomini. Gli uomini recitano la giaculatoria At-Talbiya a voce alta, mentre le donne solo mentalmente. Così per tutto il tragitto dal Miqat alla sacra moschea, nella quale si entra passando attraverso la porta della pace, Babus Salam. Alla prima vista della nobile Kaaba, il fedele recita la seguente giaculatoria: La ilaha illallah, Allahu Akbar. Non c'è divinità tranne Allah, Allah è più grande. Allahumma antas salam wa minka salam. Oh Dio, tu sei la pace e da te viene la pace. Wa daruka daru salam. E la tua casa è la casa della pace. Tabarakta ya zal jalali wal ikram. Benedetto tu sia, o possessore della potenza e della gloria. Allahumma hadha baituk. O Dio, questa è la tua abitazione. Azzamtahu wa sharraftahu wa harramtah. Tu l'hai resa sublime, nobile, santa. Allahumma fazidahu ta'ziman wa zidahu tashrifan wa takriman. O Dio, accresci la sua sublimità, accresci la sua nobiltà e la sua santità. Wa zidahu mahajjatan, e accresci la sua importanza come meta del pellegrinaggio. Wazid man hajjahu birran wa karamatan, e accresci la pietà e l'onore di chi a essa fa pellegrinaggio. Allahumma ftah li abwab rahmatik. O Dio, aprimi le porte della tua misericordia. Wadakhilni jannatak, e introducimi nel tuo paradiso. Wa'idhni minash shaitani rajim, e proteggimi da Satana il lapidato. Dopo aver recitato la giaculatoria di qui sopra, il pellegrino entra nel circuito al-Mataf, attorno alla nobile Kaaba, all'altezza della pietra nera, e dicendo il takbir, Allahu Akbar, inizia il tawaf, la circumambulazione, che è di 7 giri in senso antiorario, cioè con la nobile Kaaba alla sinistra. Durante ogni giro, il pellegrino innalza la sua lode ad Allah, lo invoca, lo glorifica, lo ringrazia, gli chiede perdono per i suoi peccati, implora la sua indulgenza, chiede supplichevole la sua misericordia. Alla fine di ogni giro, il pellegrino recita la parte dell'aia benedetta che dice Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. O Signor nostro, dacci il bene in questo mondo e il bene nella vita futura e salvaci dal castigo del fuoco. Alla fine del settimo giro, i pellegrini e le pellegrine escono dal circuito all'altezza della pietra nera, si dirigono alla stazione di Ibrahim, Maqam Ibrahim, ed eseguono raka'atain, cioè due raka, scendono poi alla fonte di Zamzam, dove si dissetano, e salgono quindi sulla collinetta di Safa. Una volta giunti in cima a essa, i pellegrini e le pellegrine si rivolgono verso la nobile Kaaba e, alzando le braccia al cielo, dicono tre volte Allahu Akbar. Poi recitano tre volte la seguente giaculatoria: La ilaha illallahu wahdahu la sharika lah. Lahu al-mulku wa lahu al-hamd wa huwa ala kulli shay'in qadir. Non c'è divinità tranne Allah, unico, senza condomini. A lui appartiene il regno, a lui appartiene la lode, ed egli ha potere su tutte le cose. Al termine della recitazione di qui sopra, il pellegrino inizia l'andirivieni tra Safa e Marwa. Safa Marwa 1, Marwa Safa 2, Safa Marwa 3, Marwa Safa 4, Safa Marwa 5, Marwa Safa 6, Safa Marwa 7. Durante questo andare e venire che inizia a Safa e finisce a Marwa, i pellegrini e le pellegrini recitano le invocazioni del profeta, recitano ayat del sublime Corano, invocano e supplicano Allah anche con parole proprie. L'andare e venire fra Safa e Marwa si chiama Sa'i. Quando i pellegrini, dopo aver eseguito il Sa'i, escono da Marwa, tagliano i capelli, o meglio, secondo la sunna, si rasano i capelli a zero. Con il taglio o la rasatura dei capelli finisce il piccolo pellegrinaggio all'Umra e cessa lo stato di consacrazione, Ihram. Il rituale del Sa'i commemora l'Islam di Hajar. Allah, rifulga lo splendore della sua luce, ordinò al profeta Ibrahim, su lui la pace, di portare sua moglie Hajar con il figlioletto Ismaele nella valle del Hijaz, dove poi ritornerà alcuni anni dopo per erigervi la nobile Kaaba con l'aiuto del figlio Ismail divenuto grande. Al momento del distacco, il profeta Ibrahim, su lui la pace, offre a Hajar la ghirba contenente l'acqua. Hajar chiede: «Me la dai per ordine di Allah l'Altissimo o per tua iniziativa?» Risponde Ibrahim, su lui la pace: «Di mia iniziativa, e Hajar, allora tienila. Colui che ti ha ordinato di portarci qui provvederà lui a dissetarci». Abramo se ne va. Il luogo era deserto e Hajar per 7 volte corse tra le 2 montagnole alla ricerca di una sorgente, ma invano. Alla fine, senza disperazione, si rimise al volere di Allah, accettando paziente quello che le parve essere il suo destino decretato da Allah e quello del piccolo Ismail, la morte per disidratazione. E Allah, rifulga lo splendore della sua luce, come riconoscimento della fiducia in lui riposta da Hajar, fece sgorgare miracolosamente la fonte di Zamzam, a cui ancora oggi si dissetano i pellegrini.